140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Jardin de l'Ange, Courmayeur. Torna in TV l'ispettore Coliandro, ideato da Carlo Lucarelli e interpretato da Giampaolo Morelli, che non indossava quei panni da 6 anni. Come li ho vissuti? E sicuramente con una grande voglia di rifare Coliandro, ma facendo tutt'altre cose, quindi ci sono stati altri ruoli, altre interpretazioni. E poi proprio quando ormai non ci pensavo minimamente più, è ritornato Coliandro, ed è ritornato dopo 6 anni d'assenza, ma esattamente da dove l'avevamo lasciato. Cioè, ci eravamo posti questo problema inizialmente, ma sono passati 6 anni, forse dovremmo cambiare qualcosa, dovremmo fare qualche modifica, dovremmo fargli sentire questi 6 anni che sono passati. Poi ci siamo detti, ma perché? Coliandro è talmente un'icona ormai, e poi devo dire che è talmente scritto bene da Carlo, ma perché cambiarlo? Riprendiamolo esattamente da dove era. Scritto da Carlo Lucarelli, appunto, lo ricordiamo, ma tu improvvisi mai, partecipi un po' al cambiamento magari di parte della sceneggiatura o semplicemente delle battute? Beh, assolutamente sì, stesso Carlo dice che ormai non riuscirebbe più a scrivere un altro romanzo di Coliandro, perché i romanzi li ha scritti quando, insomma, io non esistevo come interprete di Coliandro. Poi, una volta che è nato Coliandro in TV, anche con l'apporto di Marco e Antonio Manetti e col mio, Coliandro ha preso una strada leggermente diversa da quella del romanzo, e quindi inevitabilmente ognuno di noi dà un apporto alla storia e al personaggio. Io e te siamo uguali, potremmo fare chissà cosa se solo ci rimettessero in strada, e invece siamo qui in esilio. Certo, di cazzate ne abbiamo fatte, però anche tu, minchia, proprio un cavallo dei carabinieri dovevi andare a mordere. Oh, quelli lo hanno giurato, se ti rivedono ti sparano, bastarde. Ma tu guarda come sono ridotto, sto qui a parlare con un cane. Mi hanno messo come tappabuchi al reparto cinofilo della polizia, bell'incarico. Coliandro, poliziotto un po' imbranato, simpatico, eccetera, quanto ti somiglia? Beh, mi auguro poco, nel senso, bello sfigato Coliandro, c'è sicuramente qualcosa di me, c'è un incontro fra, come sempre quando fai un personaggio, c'è sempre un incontro fra l'attore e il personaggio, ma in questo caso devo dire che il successo è comunque dovuto a questa alchimia fra queste 4 persone, che è Carlo Lucarelli, siamo Carlo Lucarelli, Manetti Bros e io, insomma c'è questa visione comune che ci porta a fare Coliandro in maniera, insomma, secondo me bene, infatti viene poi molto apprezzato. Ma secondo te cos'è che il pubblico ama di Coliandro? Il fatto appunto che sia un po' imbranato, un po' sfigato, un po' uno di noi, mettiamola così, oppure qual è il segreto? Hai detto, è proprio che è uno di noi, Coliandro è uno di noi. Coliandro è talmente uno di noi, pensa, che è stato premiato dal SIULP, dal sindacato della polizia, come poliziotto che meglio li rappresenta. Quindi proprio i poliziotti, non le istituzioni che magari non possono sbilanciarsi, ma proprio i poliziotti ci hanno dato questo riconoscimento meraviglioso, cioè si sentono rappresentati più di qualsiasi altro poliziotto visto in TV o al cinema, si sentono rappresentati da Coliandro alla perfezione. Nemmeno un graffio come nuovo, stai sereno. Dai, retta a me. Appena puoi vattene. Finché sei in tempo, mollalo questo mestiere. Io purtroppo non posso, io ho la vocazione. Però, nessun riconoscimento per l'indagine svolta. Un rimprovero per la foto in mutande. Mi sbatteranno chissà dove, mi toccherà anche pagare i croccantini per i gatti. Dai, retta a un cretino. Scappa finché sei in tempo. Cannellini? Adesso che Triporzi è rientrato, di me non c'è più bisogno. E me ne vado. È peccato perché i cani si erano affezionati. Loro sì, ma io no. La serie ricomincia un po' da dove l'avevate lasciato, Coleandro. Qualche piccola anticipazione, qualcosa che ci puoi raccontare? Ma lo vedremo sempre in storie rocambolesche, perché poi il segreto di Coleandro è proprio questo, è uno di noi, è l'uomo comune in delle storie assurde, quindi lo vedremo in storie sempre più assurde, è sempre circondato da belle ragazze, secondo me hanno addirittura queste sei puntate nuove, quindi non più quattro ma sei, hanno una marcia ancora in più. Un'ultima domanda, inevitabilmente il tuo volto è spesso associato a quello di Coleandro, perché sappiamo la televisione insomma amplifica moltissimo, molto più del cinema per esempio. Questa associazione faccia di Giampaolo Morelli, faccia di Coleandro, ti fa piacere o a volte insomma la reputi un po' riduttiva? Ma è chiaro che l'attore sogna di passare continuamente da un ruolo all'altro. Io la vedo soltanto una grande fortuna, nel senso che avere un amore tale dai fan, io penso che è una fortuna che è toccata e tocca a pochi attori, quindi, ma magari Coleandro tutta la vita. Poi in realtà poi quando ho fatto altre cose tipo Sunghe Napoli, Lollo Love, mi chiamavano Lollo per strada, quindi poi è un continuo cambiare, però ripeto, ma pure essere incasellati per la vita in Coleandro, ma chi se ne importa, ma meglio Coleandro tutta la vita. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Giampaolo Morelli. L'intervista è stata realizzata da Alessandra Tedesco. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.